Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Oggi ripartiamo dalla 70ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ne abbiamo parlato ampiamente in queste ore. Aggiungiamo un tassello ed è quello rappresentato dalla dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione Europea Federica Mogherini, che ha incontrato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Ovviamente anche per loro, come è accaduto per i leader, per Putin, Obama, sul tavolo il tema della Siria. Bene, la posizione dell'UE dunque espressa da Federica Mogherini è dunque una situazione intermedia. Dice: Assad non può essere nella governance futura della Siria, ma questo non significa che i rappresentanti del regime non possano essere al tavolo negoziati. Insomma, se da un lato Obama diceva nessun futuro per il regime di Assad e Putin dice invece no, non c'è nessuna indicazione in questo senso, né noi vogliamo che questa sia la linea operativa di un eventuale accordo comune sulla Siria, Federica Mogherini crea di fatto una situazione terza, quindi partecipazione ai negoziati con in vista una possibile uscita di scena del presidente siriano. L'implementazione dell'accordo sul nucleare siglato tra l'Iran e le sei principali potenze mondiali potrebbe avvenire a inizio del 2016, e a fornire questa tempistica è la stessa Mogherini, sempre nell'occasione appunto dell'incontro del 70° anniversario dell'ONU, dopo un incontro con i ministri degli esteri delle sette nazioni coinvolte, che sono Iran, Germania, i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. E naturalmente in questa occasione è stata quindi definita quella che potrebbe essere il percorso definitivo di questo importante accordo. E ora invece torniamo in Europa. Del caso Volkswagen si discuterà anche a Bruxelles questa sera. Sentiamo. Lo scandalo Volkswagen sarà il tema di un incontro stasera della commissaria europea al mercato interno Elisabetta Wienbowska e l'amministratore delegato per il brand auto Volkswagen Herbert Diess. Lo ha confermato un portavoce della commissione. Intanto i ministri dei 28 discuteranno dello scandalo e faranno un primo punto della situazione in base anche alle indagini in corso giovedì a Lussemburgo al Consiglio europeo competitività. Il 6 ottobre si riunirà poi il Comitato Tecnico Europeo sugli autoveicoli, mentre il 15 si riuniranno le autorità di omologazione nazionali, sempre sotto la guida della Commissione. Nei palazzi comunitari di Bruxelles intanto tutti ostentano stupore ed incredulità, ma secondo una ricostruzione del Financial Times le istituzioni e gli Stati membri erano già stati avvertiti sin dal 2013 del pericolo per l'ambiente rappresentato da software e altri strumenti utilizzati dalle case automobilistiche per alterare i risultati dei test. Già due anni fa un rapporto del Joint Research Center dell'Unione aveva portato il problema all'attenzione dei vertici comunitari. Bruxelles si difende tramite un portavoce della Commissione, sostenendo che i ricercatori europei hanno misurato solo le emissioni delle auto, non i motori, scoprendo gas in laboratorio diversi da quelli su strada. Per questo l'Unione ha introdotto i test su strada a partire dal 2016. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E infine un rapporto Eurostat per la giornata internazionale della persona anziana, che ci descrive un futuro targato 2080 in cui un europeo ogni 8, quindi un europeo su 8 del totale dell'Unione Europea, avrà 80 o più anni. Nel 2014, dunque, già questa non è una proiezione ma è il passato, la proporzione delle persone con 65 più anni ha raggiunto il 18,5% nell'Unione Europea ed è destinato a raggiungere il tasso del 30% nel 2080. In particolare, e tornando dunque agli ottuagenari, agli 80 e oltre, la proporzione di persone che hanno appunto 80 anni all'interno dei 28 paesi dell'Unione oggi considerata è oggi al 5%, ma secondo le curve, secondo le indicazioni, nel 2080 si attesterà al 12%. Una società che cambia dunque anche e soprattutto quella europea, e con questa notizia chiudiamo questo appuntamento di Europa 24. Naturalmente torniamo domani alla stessa ora. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.